sempre grandiosi i nostri Landmark, che appunto ci delizieranno con una nuova uscita. Sono in fase di missaggio del nuovo disco che appunto ci hanno promesso in anteprima insieme a una bella intervista. La nostra Tracy Hitchens, quindi, alla voce ci ha deliziato con la scienza della coincidenza. Allora, siccome vogliamo celebrare una serata di ormai 10 anni fa, forse 11, no, 10 anni dovrebbero essere, quando a Milano vennero appunto per una serata incredibile Landmark, Jedis e Cast dal Messico, e siccome il nostro Dave Wagstaff, batterista di Landmark, mi ha ricordato questa situazione divertente con un Martin Orford degli IQ dei Jedis gettato in una piscina insieme alla sedia dove era seduto, allora abbiamo deciso di appunto celebrare quella bellissima serata mettendo un brano per ogni gruppo che partecipò a quel evento di rock progressivo di 10 anni fa. Quindi aprirono i Landmark per poi lasciare spazio ai magici Jedis con due membri degli IQ, John Jowitt al basso e Martin Orford alle tastiere, e noi ci ascoltiamo la bellissima Racing Sideways, tratto dall'album Understand. Loro sono Jedis. Let's erano Jedis, e nel salutare il nostro Federico e speriamo abbia anche apprezzato la selezione horror di DJ Balbo, oltre che quella francofona, si chiede se il professore sarà on the air, live and direct, e non al telefono. E si è qua, eccolo, di persona, professore, dov'è? Eccolo. Nonostante i postumi invalidanti, diciamo. Postumi, strascichi. Come va? L'hanno rappezzato. L'hanno rappezzata nei Paesi Bassi. Nei Paesi Bassi. E vabbè. Nelle parti basse. Esatto. Comunque tutto regge, quindi. Ennesimo rattoppo in zona. Esatto. Vabbè. Ci dica allora qualcosa. Speriamo, no? Perché il rischio è sempre quello che continua in accaderti. Con queste notizie... ansiose anche. E quindi finalmente noi ci siamo sempre chiesti, guardando i Simpson, la domanda che sorgeva spontanea era sempre la stessa: ma di che religione saranno, visto che lì proprio esatto, di tutto si fa. E invece i cattolici hanno deciso che Homer J. Simpson e il figlio Bart siano dei loro, sono cattolici. Ma come? Sì. Si sono arrogati. Sì, sì, ma questo non è che lo dice un cazzeggiatore qualsiasi, lo scrive il cazzeggiatore principe, l'Osservatore Romano, il paludatissimo quotidiano del Vaticano. Esatto. Delle gerarchie clericali italiane. Assolutamente. E quindi questi scrivono così e hanno tratto questa fondamentale informazione dalla rivista teorica loro, che si chiama Civiltà Cattolica, la rivista dei gesuiti. Quali sono gli elementi che farebbero pendere la tesi? Giustamente una domanda. E quindi l'articolo riprende la battuta seguente di Homer. Il cattolicesimo è mitico, avrebbe detto. Ma lo dice di qualunque cosa, soprattutto trash. Bisognerà spiegarlo prima ai gesuiti di Civiltà Cattolica e poi a quelli dell'Osservatore Romano. Ah, quindi non hanno capito che poteva essere una battuta. Evidentemente no. È l'unica puntata che hanno visto dei Simpson. Sì, no, che tra l'altro è strano che non l'hanno capito, perché è nell'episodio padre, figlio e spirito pratico. Che già apprezziamo solo che già... il titolo. Non sembra proprio di quelle più... Ma è educative da quel punto Ligie. Di vista. Esatto. Ma. E quindi in cui lui e Bart, Homer e Bart, si convertono grazie all'incontro con il simpatico padre Sin. Cioè, questo simpatico padre Sin, loro trovando simpatico questo padre Sin, dichiarano il cattolicesimo è mitico. Forse anche perché Simpson ha dei... di verbi con il vicino di casa Flanders, che invece dovrebbe essere tipo evangelico. Sì, perché comunque frequenta la chiesa del pastore. Ce ne sono, in effetti non ci avevo mai pensato a questo risvolto. Veramente fondamentale per l'esegesi dei Simpson. Mentre invece negli Stati Uniti succede anche dell'altro, per esempio Washington si dice tacco a spillo nell'occhio durante il lap dance. Una cosa horror. Veramente. Horror erotico. Colpito in un occhio dal tacco a spillo di una danzatrice durante uno spettacolo di lap dance in Florida. Florida. L'uomo Michael Ireland riceverà $650,000 di risarcimento. Professore, hai capito? Pensiamoci un attimo. Alla fine se l'era anche andato un po' a cercare. Esatto. Non credo che quel tacco sia arrivato a 10 metri di distanza. Sì, si sarà buttato lui, dice. Con l'occhio sul... Beh, un bel risarcimento però. Però insomma, sì. Quasi quasi uno ce lo perde pure, no? Qua è $650,000. Comunque Ireland aveva riportato un infortunio durante una visita al Cheetah Club di West Palm Beach. Aveva chiesto una lap dance alla spogliarellista Suki. Ma durante l'esibizione la ragazza aveva centrato maldestramente. Con la punta del tacco a spillo un occhio del cliente. Ma secondo me si sono messi d'accordo. Lui ha detto: tu ti do $100,000 poi del risarcimento. Vabbè, lei non ci ha perso neanche mezzo occhio. Esatto. Ma è un affare andato a buon fine, dica. Veramente. Che altro abbiamo di succulento? Veniamo un po' in Europa, va? Perché sembra sempre che abbiamo con gli Stati Uniti. E invece in Europa, a Parigi, i fan francesi di Michael Jackson chiedono una chiesa per il buon Giacomo. San Jackson. Qui veramente è difficile accostare, forse era più facile accostare i Simpson alla chiesa cattolicesima che non... Esatto. Questo Michael Jackson, che era ricordiamo, un artistone, diciamo, però insomma, non uno che si possa venerare per le sue abitudini. So a vedere quanto ci fosse dimontato, ma non lo sapremo mai, forse. E comunque no, sicuramente più per il fatto dei suoi scandali a sfondo sessuale, anche per la cosa trash di essersi fatto togliere la melanina per non sembrare più nero. Cioè, beh, questo veramente è estremo. Operazioni dolorosissime. Italia c'era Nino Ferrer che cantava "Vorrei la pelle nera". Esatto, sì. E lui invece "Vorrei la pelle bianca". Ma... bianca, lattiginosa. Comunque, vabbè, bisogna tornare negli Stati Uniti, perché il tormentone cosa farebbe per $1,000,000? Lei correrebbe nudo a un comizio di Obama? Anche per molto meno. Anche per i $650,000, piuttosto che un tacco a spillo nell'occhio. Anche per i $100,000 della spogliatoia. Assolutamente. Un uomo si è spogliato nudo a Filadelfia durante un comizio del presidente Obama. Il miliardario Alki David, proprietario del sito battlecam.com, ha promesso $1,000,000 alla prima persona che riuscirà a correre nudo davanti allo sguardo di Obama con la scritta Battlecam sul petto. Comunque, ovviamente, vabbè, non voglio fare delle... però ha un nome spagnoleggiante. Juan James, che è la traduzione di Juan James Rodriguez, ne sappiamo qualcosa del Messico, 24 anni, lo ha fatto comunque ed è stato arrestato. Poi l'ANSA chiude dicendo: resta da vedere se il miliardario onorerà la promessa. Quello è il problema. Dubbio, cioè. Mamma mia. E vabbè, facciamo una pausella musicale. Oh, casualmente un gruppo messicano, visto che siamo in ambito, è un gruppo serio, appunto, headliner di quella bellissima serata di 10 anni fa a Milano. I cast dal Messico con tutta la loro famiglia al seguito, 20 persone al concerto. Metà del pubblico praticamente era la famiglia dei cast, tutti venuti al Messico. Un bel cast. Esatto, un bel cast. Questo bell'album, Legacy. Noi ci ascoltiamo Beneficiaries, loro sono Cast. E andiamo avanti, ancora un po' di immondizia, professore, ci dica. Dobbiamo andare a Madrid. No, il prossimo anno ci andiamo. Purtroppo si è svolta il 14 ottobre, si è svolto il campionato nazionale di siesta. Oh, finalmente una gara a cui potrei partecipare con qualche buone probabilità e vittoria anch'io. È bellissimo. Comunque 360 persone si sono iscritte a questo primo campionato nazionale. Indetto chiaramente dall'associazione, organizzato dall'associazione degli amici, appunto, della siesta. Si cimenteranno in periodi, questo non si capisce però come funziona. Si cimenteranno in periodi di sonno di almeno 20 minuti, durata ideale raccomandata dagli esperti, e vincerà chi dorme meglio e di più, però a pezzi di 20 minuti. Non impazzisce. Perché non è di sonno, è di siesta, capito? Allora si vede che ogni 20 minuti ti svegliano, tu devi stare un po' sveglio e poi ti devi essere capace di riaddormentarti. Ma si può usare anche qualcosa per... Vabbè, quello dipende... No, ti controlleranno, non lo so come fanno. Faranno le analisi del sangue. Ti mettono in gabbia due settimane prima, non so. Bah. Mentre invece ci manda un po' di notizie Federico dal Corriere della Sera. Troppo osei manifesti pubblicitari di un negozio hi-fi. Hi-fi! Dove si vede una modella toccare le proprie parti intime. Così il sindaco di Pontedera ha firmato un'ordinanza. Il sindaco Simone Millozzi ha firmato un'ordinanza. I manifesti pubblicitari sono comparsi oggi vicino alle fermate degli autobus commissionati da un negozio di elettronica. La donna del manifesto ha attirato l'attenzione dei passanti sia per il suo gesto di allusivo autoerotismo inequivocabile e provocante, sia perché si tratta di una bella modella. Perché se era brutta, secondo il Corriere, non attirava l'attenzione pur facendo quello che stava facendo. Non è il gesto che conta, ma l'apparenza della persona. Esatto. Il sindaco ha ritenuto che il richiamo sensuale affidato all'immagine della modella fosse andato oltre i limiti del buon gusto e ha ordinato la rimozione dei manifesti o il loro oscuramento. La campagna pubblicitaria rappresenta un'offesa alla dignità del corpo femminile. Mettevano le foglie di fico. Ma veramente, siamo a livelli... non è che adesso la pubblicità è da paragonare. Michelangelo, però insomma, sembrano più ridicoli ancora questi qua. Comunque, dice il Corriere, già con 2A questa mattina gli operai del comune si metteranno al lavoro per eseguire l'ordinanza del sindaco. Mentre in città continua il passaparola per andare a vedere la foto audace che pubblicizza, ormai è diventato un luogo tipo Međugorje, un luogo di pellegrinaggio, l'apice del villaggio globale. Ma lui non potrà più rimuoverlo perché nel frattempo sarà su internet, esatto. Magari l'hanno studiata, dov'è, in Toscana? No. Esatto. Ah, ecco. diventerà una pagina del Vernacoliere forse. Esatto. Ci dica, professore. Invece in Nuova Zelanda hanno dei problemi con l'economia che sta rivelandosi davvero un grande paradosso. Noi forse ne abbiamo un'idea quando scopriamo che la carne alle volte costa meno della verdura, insomma, che poi la verdura grossolana che serve ad alimentare gli animali che poi vengono, costa meno. E quindi là adesso succede una cosa assurda, che il vino costa meno dell'acqua. Come è possibile? Dio, c'è da dire che l'acqua non costa pochissimo rispetto a... In Nuova Zelanda? In Nuova Zelanda. Quanto costa? Perché l'acqua costa, un quarto, costa 23 centesimi. Un quarto di litro? Non è poco. No, infatti. Io ci prendo più di una bottiglia. Che acqua prende, professore? L'acqua frizzante. Ah, ok. E vabbè, per il vino come fanno a farlo pagare così poco? 33 centesimi costa... 33 centesimi di euro costa un bicchiere di vino. Non si dice come riescono a tenere i prezzi così bassi? Sembra di sì, perché la produzione è veramente esagerata. Un eccesso di produzione che per anni ha abbattuto i prezzi. E quindi si vede che là non vogliono distruggere le eccedenze, che ne so. Questa produzione abbondante ha fatto sì che insomma alla fine l'acqua costasse più del vino. Esatto. Mentre invece ci manda sempre Federico una notizia dalla Catalogna. Ole! Madrid, più visibili per legge. No, è a Castiglia, che Catalogna. Esatto. No, Catalunya è successo in Catalunya, però no, la notizia è titolata Madrid. Se non si rispettano le autonomie. Esatto, no, è vero. Ma più visibili per legge, le prostitute di Alamús, piccola cittadina alle porte di Lérida in Catalogna, hanno infine accettato di completare il loro già poco sobrio look professionale con vistosi gilet color verde cata rifrangente di notte. Così l'accessorio è stato imposto dalla polizia. Ah, ecco. Sono proprio lucciole. Per le stesse effetti, non ho capito. È vero. Cioè, brillano. No, perché poi dice per le stesse ragioni di sicurezza che accompagnano i lavoratori stradali. Quindi, giusto. Le lavoratrici stradali. Invece di scavare le buche, cioè. Il figlio giustamente così gli dicevo, passando in via Milano, si sono le vigilesse notturne. Esatto. Le ragazze e una mezza dozzina, ma pochissime tra l'altro, un paese di 20 persone, ma esercitano ad una rotonda periferica, la LI11, cioè nel caso uno fosse di strada in Catalogna, il Corriere, lo segnala. È preciso, esatto. Giustamente. Appena fuori dai confini comunali di Lérida, dove l'adescamento è proibito, quindi... Gli agenti non avevano trovato nulla da eccepire alla presenza delle lavoratrici stradali, salvo il fatto che non rispettassero le norme di sicurezza imposte dai cantieri all'aperto. Quando si fermano, oppure come gli automobilisti quando si ferma sulla corsia d'emergenza, l'uso del giubbetto fluorescente. Stanche di pagare multe da 40 euro, le ragazze hanno deciso di sacrificare parzialmente il loro sex appeal, chissà invece che non sia un nuovo feticismo, e adeguarsi alla normativa vigente senza troppe recriminazioni. Il feticismo del catarifrangente, no? Esatto. E comunque alla fine a questa analisi il Corriere della Sera, in fondo le giornate si accorciano e il gillerino ha il vantaggio di segnalare nell'oscurità l'area di sosta delle lucciole, che poi detto così appunto è veramente, dai, ce ne dica un'ultima veramente degna della catena di questa sera. Invece in Giappone che succede? Hanno inventato un proiettore che crea immagini 3D e che è possibile toccare con mano. Mi ha incuriosito tantissimo questa cosa. E quindi, dice, il prototipo riproduce l'effetto tridimensionale senza la necessità di indossare gli occhialini. Hai capito? Usando un sistema di riflessi ottici che proietta le immagini simultaneamente da 42 punti di vista diversi, portando il cervello a interpretare la scena sul piano tridimensionale. Il risultato è un'immagine fluttuante che è possibile anche toccare e muovere. Ma questa non è trash, però è bellissima. Ma questa è esagerata. Quindi questo meccanismo, come... Ma però non ho capito come fa a dargli una corporeità. Diciamo, una tattilità. È veramente strano, però comunque notevole. Vabbè, comunque mi lascia perplesso, bisognerà forse seguiremo gli sviluppi comunque, questo che è un mistero non per ci noi. Ci sono altri estremi, proprio non dice niente, alle volte cita le ditte, i gruppi di ricerca, quasi sempre, certo. Invece questo no. Comunque, seguiremo. Metteremo 3D toccabile. È palpabile. Palpabile. Allora ci fermiamo per un'altra pausa musicale, o musica d'arte o colonne sonore, questa sera colonne sonore. Quindi questo notturno 1983, il tema di basso dei nostri Goblin. Thank you. nostri amati Scorn ci accompagnano nell'angolo dei misteri di Mystery Tour. Ma ci dica. Forse anche in questo ambito ci saremmo attesi di più dalla amministrazione Obama. E allora qui andiamo un po' avanti con questi estenuanti stop and go. Per cui, per un verso, compare ancora un'agenzia dell'ANSA, un lancio d'agenzia che ci dice, che ci ricorda, insomma, questo tormentone dell'ufficio dell'ONU che deve occuparsi di predisporre un incontro, preparare un incontro eventuale con gli alieni. E quindi questa notizia continua a ritornare. È statisticamente possibile, adesso è la formulazione. Vabbè, è quello che noi diciamo da sempre, insomma, che diceva anche Asimov, quindi non dei cazzeggiatori, insomma, anche Carl Sagan, a cui è stata intitolata la sonda che conteneva il Pathfinder. Comunque, adesso anche per l'ONU o la NASA? No, l'ONU proprio. Per l'ONU è statisticamente, vabbè, ma è statisticamente questa possibile. È scienza, è matematica, cioè. Certo. Facciamo il calcolo probabilistico di tutti i sistemi solari con un pianeta certo, a una distanza sufficiente dal Sole per avere condizioni simili alle nostre. Beh, tenendo conto che le diversità di vita possono essere assolutamente infinite, visto abbiamo parlato di vita in condizioni impossibili per quello che noi pensiamo vita, insomma, però vediamo profondità oceaniche impensabili, questi gamberetti, freddo, pressione allucinante, gamberetti che sono surgelati eppure vivono in mezzo a un vulcano, oppure come nel caso di Aliens of the Deep di James Cameron, vivono all'interno dei geyser con l'acqua bollente. E ora si stanno cercando nella stratosfera con delle apposite missioni spaziali, per quanto non dovrebbero esserci più tanti dubbi, visto che tutte le componenti degli organismi sono state trovate un po' dappertutto. Insomma, noi abbiamo parlato anche di un nanobatterio tanti anni fa in un meteorite proveniente da Marte, la roccia Alan Hill nell'Antartide, quindi, è stata ritrovata da questo geologo. Noi ricordiamo sempre che all'epoca il presidente Clinton stava quasi per rivelare all'umanità, insomma, tutti i segreti della NASA riguardanti questo tipo di problematiche, in quanto lui fece una dichiarazione entusiastica dicendo: abbiamo scoperto finalmente che c'è vita negli altri pianeti. E qualcuno si sentì addirittura quasi mancare, il nostro Brian Dunbar, l'amministratore delegato della NASA. Poi dopo la sconfitta, diciamo, politica di Clinton, è tornato il gelo. Ora sembra che qualcosa comunque si muove, però nello stesso tempo continuano le provocazioni e il cover-up nei confronti di tutto ciò che attiene alle apparizioni, diciamo, degli UFO, perché anche a New York è accaduto, proprio a Manhattan, due giorni fa, e che sono stati avvistati da centinaia di persone degli UFO. Credo la prima volta che avvenga in una grande metropoli, cioè poi in un quartiere in Chelsea. Esatto, quindi un quartiere up. Quindi beh, si pensa che le persone lì che siano abbastanza colte, abbastanza anche sensibili ragionevoli, razionali, poi abituate a ogni forma, a ogni tipo di spettacoli, tecnologia, cioè, insomma, quindi capaci di... Sì, non è il contadino dell'Arkansas, diciamo. Esatto, e quindi hanno tempestato di telefonate la Federal Aviation Administration, e questo ha dato il segno, diciamo, proprio preciso di come fosse... effettivamente un evento anomalo che la gente interpretava come apparizione di UFO. A questo ha risposto immediatamente la più ridicola delle operazioni di cover up, che avrebbe lo scopo di mettere in ridicolo diciamo gli ufologi riguardo all'apparizione di Manhattan. Infatti hanno deciso che erano palloncini per bambini ma dai, addirittura partiti dal Vermont. Addirittura. Quindi centinaia di persone di Manhattan e quindi hanno cucito tutta una storiella di queste maestre che hanno fatto una festa con i palloncini. Veramente... Alcuni erano fuggiti di mano alla maestra, che adesso nome e cognome fa cioè un personaggio pubblico, appare la direttrice di questa scuola. Tutto per ridicolizzare, però veramente ridicolo. Modo ridicolo, cioè, siamo arrivati... ridicolizzare. Sì, però esistono queste cose, sono... sono in internet queste notizie. Quella riguardante l'apparizione degli UFO la troviamo in più versioni, la troviamo forse anche in YouTube, così. Poi in YouTube si trova anche una roba assurda, che sarebbe la sparizione di un intero villaggio in Cina. Però io su questo su questo non, il nostro ozio non ci ha ancora consentito di approfondire. Vabbè, direi di fare un'altra pausa musicale prima del tour dates e ci ascoltiamo un gruppo che purtroppo non c'è più, i La Rox di Padova, con un cantante però toscano, Morbi, grande ugola dello street rock italiano. Ecco, appunto, sentendo questa musica vi sembrerà di sentire un gruppo assolutamente americano, invece no, erano italiani. Ed era il 1996 con l'album Help Me Out, questa è Long Dark Night. I can see your crying eyes. It's like my soul is gonna die. The silver stars in the sky, the sad song in your mind. I can feel your broken heart when it beats down in the dark. I said, oh, baby, I wanna make you mine. Oh, pretty baby, you can live. Look at your back. I said, hey baby, don't be shy. Tour Dates di Mystery Tour. Ci sono delle date interessanti in ambito rock progressivo, veramente fino alla fine dell'anno ci sono quattro appuntamenti imperdibili, unici, poi situazioni insomma che tornano anche dal passato. Allora, per esempio, il 27 ottobre avremo al Tunnel Club di Reggio Emilia Le Orme, però con una line up particolare, perché saranno Aldo Tagliapietra, il nostro Aldone Tagliapietra, Tony Pagliuca alle tastiere e Tolo Marton alla chitarra, quindi una line up legata all'album Smog Magica, registrato, pensate un po', a Los Angeles dalle Orme nel 1975, quindi sono 35 anni di disco. Quindi suoneranno al Tunnel Club di Reggio Emilia Le Orme con questa line up, Tagliapietra, Pagliuca, Marton, il 27 ottobre. Poi 6 novembre ci sarà al Bloom di Mezzago in provincia di Milano la Progvention, convention di rock progressivo, con tre gruppi storici dell'area del rock progressivo degli anni 70, la Locanda delle Fate, gli Alfa Taurus e i Garibaldi, che ricordiamo a una bellissima festa radio Onda d'Urto nel 95 al monastero di Santa Eufemia, Garibaldi di Bambi Fossati. Facciamo una bellissima intervista, allora, ormai la bellezza di 15 anni fa. Comunque, Alfa Taurus, Garibaldi, Locanda delle Fate al Bloom di Mezzago il 6 novembre. Poi il 22 novembre all'Arci Magnolia, all'Idroscalo di Milano, i nostri beniamini Osric Tentacles. E il 4 dicembre, appuntamento importantissimo, alla Sala Granzioli di Preganzioli in provincia di Treviso, The Watch, che suoneranno in questa occasione il capolavoro Foxtrot dei Genesis per intero, con un anticipo anche del tour di Selling England by the Pound. Quindi ricordiamoci, grandiosi gli spettacoli dei Watch, sembra di sentire appunto i Genesis di Peter Gabriel. 4 dicembre alla Sala Granzioli a Preganzioli in provincia di Treviso. Contattate il sito www.lizardrecords.it per i biglietti del nostro grande amico Loris Furlan, che salutiamo, lizardrecords.it. Allora, ancora un paio di brani e qui stasera siamo siamo sempre molto nostalgici, ci occupiamo poco del presente, diciamo. E quindi eravamo in ambito hard rock, street rock, glam, chiamatelo come volete, negli anni 90. Orbene, nei primi anni 90 usciva nel 93 questo Hungry for Your Love, disco dei Love Machine, con alla voce il nostro Drago Ragozza, che è stato anche molti anni a Brescia con le sue lezioni di canto. Quindi noi ci ascoltiamo questa Reaction to Sensation, era il 1993, erano i Love Machine. Remember Allora, restiamo in ambito di musicisti italiani che sembrano assolutamente americani. E dopo i La Rocks, dopo i Love Machine, noi ci salutiamo, ci sentiamo domenica prossima sempre alle 20 e ci ascoltiamo il nostro Daniele Liverani da Alfonsine in provincia di Ravenna. Con il suo primo album solista, adesso è diventato una superstar. Questo era qui dal 1998, era il 96, scusate, era Viewpoint, Hope, Daniele Liverani. If you feel you have reached this recording in error, please check the number and try your call again.